dire padre se non vivi davvero figlio. Non dire nostro se ti isoli nel tuo egoismo. Non dire che sei nei cieli se pensi solo alle cose terrene. Non dire sia santificato il tuo nome se non lo onori. Non dire venga il tuo regno se lo confondi col successo materiale. Non dire sia fatta la tua volontà se pensi sempre di aver ragione. Non dire dacci oggi il nostro pane se non ti importa niente della gente che ha fame. Non dire rimetti a noi i nostri debiti se non riesci ancora a perdonare